Io l'ho sempre vissuto così, Francesco, ho riso tanto con lui e poi ho colto la vittoria più bella che è la Coppa del Mondo. Quindi questo significa che si può fare tutto in un ambito professionale, basta farlo al momento giusto. Francè, 4-0, anche te sei arrivato a 40, tanti auguri, ciao. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco Romagna e in odor di Toscana. Siamo a Bologna. Ah, siamo a Bologna. Siamo a Bologna, ascolta. Qualche dubbio era venuto, 800 24 00 24 se ci volete chiamare, perché comunque stiamo qui fino alle 15.30 in diretta. Siamo a Bologna al Cersaie, come vi avevamo promesso, Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno, così l'abbiamo detto. Se volete venirci a trovare, passate, sì, i tornelli. Se avete un bagno da arredare, se vi servono piastrelle, se... E siamo qui nel giorno del compleanno di Tom. Vai, scusa. Secondo te, mi mette Guccini, mi mette Guccini. Potresti mettere anche via Paolo Fabbri, fra craffe, le boiate, le ore stanche, sono volate, cazzo, l'autobus mi insegue lungo il viale. Ma secondo te, l'alba, poi, beh, basta. Secondo te, Pier, qual era il consiglio che doveva dare del Piero a Totti, che ha detto: c'è il tempo per fare tutte le cose, basta farle al momento giusto, che da prima l'ho sentito. Ma non lo so, però hanno una cosa in comune, che oltre a essere due grandissimi giocatori, che vogliono giocare. E in qualche modo tutti e due hanno, diciamo, lasciato da parte il marketing di se stessi, sono presi dei rischi in funzione della voglia di continuare a giocare. Totti avrebbe certamente potuto gestire, dal punto di vista degli spin doctor, degli esperti di marketing, di quelli che ti parlano del posizionamento, come diremo a Bologna, no? di un grande personaggio, l'avrebbe potuto gestire meglio quest'ultimo periodo, con meno polemiche, in una maniera più clamorosa, più spettacolare anche un eventuale addio. Ma non gliene frega niente, perché quello gli interessa è continuare a giocare finché si diverte. Del Piero uguale, Del Piero andrà a giocare veramente nella periferia del mondo, con lo spirito di un esploratore, di che andava dall'altra parte perché aveva ancora voglia, anche se forse sarebbe stato in quel momento, diciamo, più consigliabile appunto agli esperti di marketing una chiusura con uno stile diverso, più enfatica, però insomma questo in qualche modo secondo me è tipico dei grandi, di quelli che possono dei campioni generosi. Poi ne parliamo con Marino Bartoletti nella seconda parte del programma. Io saluto Andrea Consigli, ciao Andrea. Buongiorno, ciao a voi. Come va? Come va? Portiere del Sassuolo, per i due o tre che non lo conoscessero, e che il nostro Giorgio De Luca ha cercato col lanternino, perché ho scoperto, carissimo per Luigi Pardo, che in carriera è uno dei pochi portieri che quasi non ha beccato da Totti. Ne hai preso solo uno. È vero, mi sa. Sì, il 200esimo, cioè quello proprio... È importante. Sì, ne hai preso, uno all'Olimpico, tra l'altro in un pomeriggio a letto in cui Sassuolo, insomma, gli era andata bene, un bel 2-2. Che effetto ti fa che oggi Totti compie 40 anni? Dai, da collega. No, vabbè, fa piacere più che altro vederlo a 40 anni ancora che può decidere una partita, che entra e si rende sempre importantissimo per la sua squadra, con quelle giocate di prima che ha solo lui e che gli vediamo fare da tanti anni, e che quando smetterà, andrà in pensione, dispiacerà non vedere più. Ma subite, è vero che si subisce un po' il fascino di Totti anche da avversari? Anche in questo finale di carriera, quando entra e spesso ribalta le partite anche semplicemente con la sua presenza? Ma sicuramente... può essere un fattore all'Olimpico, perché comunque sia quando entra in campo la gente lo acclama, cambia proprio lo stadio. Quindi sicuramente Totti per i romani, per i romanisti, significa tanto, e come mette un piede lui in campo la gente si anima. Emozione. Tu hai parlato con Raccattapalle, cioè, lo scorso in Sassuolo Roma, sotto la pioggia ci fu quella scena abbastanza curiosa del Raccattapalle che si mise a palleggiare con Totti. Ci hai parlato con quel Raccattapalle? No. Ecco. No. Non ci ha parlato. Non ci ha voluto parlare. Facciamo il raccattalinea, raccattalinea telefonica, prima Maria. Proviamo a raccattare la linea di Andrea Consigli. Noi abbiamo lanciato l'hashtag oggi intanto. Il mio regalo per Totti è aperto a tutti, quindi sia ai tifosi di Totti che agli avversari di Totti, perché poi, come tutti i grandi personaggi, Totti è anche uno polarizzante. Credo che alla fine anche i laziali più accaniti, o gli juventini più accaniti, o gli interisti più accaniti, comunque lo considerino un esempio, perché comunque lui ha fatto una scelta che è una scelta, secondo me, comunque grande, enorme, no? In un calcio che spesso è un calcio dove si va dal miglior offerente, ha scelto di vivere nella sua città, di continuare a giocare per la sua squadra e di farlo a altissimi livelli per 25 anni. Questa è una cosa, secondo me, che ha un valore inestimabile. Poi è chiaro che qualcuno potrà dire che non ha avuto magari il coraggio di misurarsi con altre realtà, però alla fine, insomma, di che stiamo parlando? Se ci lamentiamo del calcio di plastica, del calcio, no, dove si va dal miglior offerente, poi alla fine bisogna riconoscerlo. No? Abbiamo recuperato Andrea Consigli che era caduto. Andrea, No, avevo la curiosità se hai parlato con Raccattapalle, che l'anno scorso in Sassuolo Roma ci aveva palleggiato in una delle scene con Totti in panchina. Sinceramente non ci avevo parlato, no. Però neanche me ne ero accorto dal campo, perché chiaramente ero preso. Avevi altre cose da fare, più importanti, sì, certo. Però una cosa che poi, rivedendo poi nel post partita, nei giorni dopo, è una cosa bella, perché un campione così, penso in quel momento, quel bambino che già era felice per fare Raccattapalle in uno stadio, mi ricordo quando ci andavo io da piccolino, immagino cosa possa aver provato a palleggiare con Totti. Cosa raccattavi? Qual è il tuo primo ricordo di raccattamenti a bordo campo? Che partite facevi? A Bergamo, io da Milano andavo fino a Bergamo, perché ho fatto il regione in Atalanta e mi guardavo le partite da dietro. Mi ricordo un Atalanta-Sampdoria ai tempi, giocava Montella, questi giocatori qua. Senti, questo Sassuolo come va? Questo Sassuolo? Siete virtualmente terzi, se non fosse per quell'incidente dei tre punti persi col Pescara. Ti fa un po' effetto? Sì, dai, anche se negli ultimi anni ci stiamo piano piano abituando a stare in certe posizioni, fa sempre strano, però è aumentata proprio, è cresciuta la squadra per come gioca, per come interpreta le partite, eccetera. Speriamo che ci ridiano questi punti con il ricorso, perché noi ce li siamo meritati in campo e niente, speriamo di fare. È abbastanza incredibile come sanzione, mi permetto di dirlo, al di là del fatto che poi ovviamente è stata commessa un'irregolarità probabilmente, però insomma i tre punti, cioè ribaltare il verdetto di una partita per una cosa essenzialmente burocratica, mi sembra francamente esagerato. Ma voi avete la sensazione, visto che dietro Juve e Napoli camminano un po' tutte, che ci possa essere lo spazio? Insomma, Sassuolo è una squadra costruita per stare lì in alto. Quest'anno abbiamo l'incognita, grazie a Dio, dell'Europa, che abbiamo questa competizione in più da fare, che ci toglie tanto dispendio di energie, tanta concentrazione. Anche adesso, domani partiamo, andiamo in Belgio per la seconda partita, è bellissimo, e quindi l'unica incognita può essere quello, perché chiaramente non siamo quelle corazzate che, come può essere la Juve o il Napoli, che hanno 30-20 giocatori, tutti affermati, tutti di qualità. Noi Senti, ma siamo... fra campionato e Europa League, se ti chiedo di scegliere, cosa vuoi nel dire? Senso che mi sembra, poi magari mi sbaglio io, ma insomma il Sassuolo magari pensa di arrivare terzo e magari può anche arrivare terzo, ma è difficile onestamente che possa, secondo me, andare oltre l'Europa League. Allora forse è meglio viversela alla grande come state facendo, perché la prima partita è stata meravigliosa quest'anno. Ma noi la nostra forza è che abbiamo un mister talmente preparato che, bene o male, chi entra, chi esce, tutti sanno quello che devono fare in campo, quindi salvo infortuni, come magari ci sta capitando adesso, riusciamo abbastanza a tirare, a ruotare tutti e essere competitivi su più fronti. certo, il sogno sarebbe vivere quello che ha vissuto il Leicester in Inghilterra e vincere un campionato, però la vedo abbastanza dura. Mi piacerebbe riguadagnarmi un'altra Europa League almeno, certo, con la maglia del Sassuolo in campionato e andare avanti il più possibile in Europa, perché è un fascino particolare. Vabbè, vuoi tutto, sì, due gusti meglio che one. Grazie. Ogni 40-50 anni si può anche pensare di vincere il campionato. Senti, lanci il traffico, lancia il traffico, perché adesso c'è il traffico, prego, lancialo tu, professore. Prego, okay. Consigli. Ok, allora la linea al traffico. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. JP Morgan Asset Management vi presenta Tutti convocati. Da Terna parte un invito in area per Fonseca, che fa da torre per Totti. Sinistro in corsa e palla nel sacco. Molto bravo il giovane attaccante romano, schierato alla posto di Balbo. Questo è il mio primo gol in Serie A contro il Foggia il 4 settembre del 93. Ma stare qua a parlare del primo gol in Serie A penso che sarebbe banale parlarne bene. Però ricordo soprattutto il giorno prima, quando il mister mi disse che giocavo dall'inizio con Fonseca al posto di Balbo, rimasi incredulo. Perché indimenticabile, ancora sei per me. Totti. Segna anche non ci Totti. Credo. Totti ha rischiato l'impossibile, ha beffato Van der Sar con un tiretto. Panenka ha fatto lo stesso dalla finale europea tra. È comunque una dimostrazione, Bruno, di tranquillità, di sicurezza dei propri mezzi, vedi? Questi gesti o sei matto o sei bravo. Io matto sinceramente non lo sono. In ogni istante resterai indimenticabile. Comincia Candelà, ottimo il tandem ancora con Montella. Vai, vai Francesco. Ecco Totti, pallonetto di Meghetta. Pallonetta 5-1, è il 5-1. Per me è un orgoglio, è una cosa che ho sempre voluto, che sin da bambino ho pensato di indossare un'unica maglia. Indimenticabile. Assiste ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Gestire meglio sarebbe un bene per tutti, più che altro avere un po' di rispetto per quello che ho dato a questa società, a questa squadra. Cerchiamo sempre di mettere la faccia davanti a tutti. E abbiamo selezionati alcuni dei milioni di momenti che Totti ha regalato in questi 25 anni di carriera. A proposito, 800 24 00 24, aspettiamo anche i vostri, oppure 349-238-6666 via sms, via whatsapp, oppure l'hashtag il mio regalo per Totti, se volete scriverci. Ce ne sono già un po', vai. Chi ricorda perfettamente il giorno dell'esordio in Serie A, Pier Giorgio da Brescia, che tifava Brescia, ricorda il gol su punizione di Mihajlovic e l'ingresso del ragazzino negli ultimi minuti, non sapeva di essere presente ad un evento storico. C'è anche Mario che dice lo sputa Poulsen, il calcione a Balotelli, il baffo a Rizzoli, grande calciatore, ma gli esempi sono altri. Ovviamente Totti è polarizzante, e poi giocatore italiano più forte del calcio moderno, ci scrive Andrea da Prato, un limite tecnico di crescita non aver cambiato squadra, e qui il dibattito è aperto. Insomma, io credo che sia una storia essenzialmente di amore e fedeltà, però rimane, insomma, sicuramente ha rinunciato a tanto. Sì, poi ripeto, non voglio fare lo psicologo a quattro soldi, c'è anche chi pensa che abbia rinunciato perché alla fine non si sia voluto misurare con una realtà che poteva diventare più complicata. Però ripeto, se per noi il calcio è bandiere, è affetto, è fedeltà, allora non... di che stiamo parlando? Quelli come Zanetti, come Totti, come Del Piero, come Maldini vanno amati a prescindere, vanno conservati in una teca. Saluto Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport. Ciao direttore. Ciao ciao, buongiorno a voi ascoltatori, ciao a tutti. Come va? Stiamo 44 pagine anni, oggi, 44, quante pagine c'erano? 40, ma soprattutto è impressionante, un grande pezzo di Pierluigi Bardo. Sì, vabbè. Sì. Nella scala di gradimento è stata i primissimi posti in parete, no? Perché parte, mi fa piacere che tra l'altro Pierluigi appunto scrivendo abbia parlato di allegria. Io credo che la cosa che un po' colpisce secondo me nella carriera di Totti, tu quando pensi ai grandi calciatori, ai campioni, poi li abbini poi al lusso, agli aerei privati, alle ville, alle fidanzate, alle grandi macchine. Invece parli di Totti, che è un grande campione, e poi nel privato lo abbini a ironia, allegria, quello come parlava Pierluigi, sorriso, comicità, beneficenza, famiglia. Insomma, mi sembra che abbia mantenuto una dimensione, tra l'altro con i suoi errori, perché è giusto, Francesco Totti ha fatto anche degli errori nella sua carriera che spesso, anzi quasi sempre, anzi sempre ha riconosciuto ed è ripartito, però insomma in linea con una normalità che lo ha accompagnato anche fuori dal campo. Secondo me questo che ne ha fatto un personaggio trasversale, universale, insomma oggi è un testimone apprezzato da tutti, non soltanto Roma, uno che ha saputo giocare sulla sua romanità, sul che ha fatto le barzellette su se stesso, secondo me solo questo dalla misura del ragazzo che è rimasto. Del personaggio che era, ma secondo te, al di là del racconto ufficiale che lui stesso fa e lo abbiamo anche sentito in questi anni, il giorno in cui smetterà, un pochino dentro gli resterà il rimpianto di non aver provato a diventare magari il migliore di tutti vincendo altrove? Beh, Madrid. Che sia un rimpianto, dopo no? Vi faccio sentire, oggi l'ha detto, potevo andarci al Real. Ma io credo che non si debba, che credo che nella carriera di Totti lui non viva né di rimpianti né di rimorsi. Insomma, ha fatto una scelta che in quel momento gli è sembrata la scelta più giusta, per cui no, io penso che nel suo bilancio non ci sarà il potevo andare, credo che sia felice di essere rimasto in una squadra sola e appunto non è che l'ha fatto per spirito di sacrificio, lui l'ha fatto perché probabilmente da tifoso avrebbe immaginato che uno come Totti sarebbe stato bello legarlo a una sola maglia, per cui anche in questo ha ragionato da tifoso. Secondo me dietro la scelta professionale c'è quello che lui si sarebbe aspettato se fosse stato il tifoso Totti e non il campione Totti. Totti può dare ancora al calcio come allenatore o come dirigente, o forse si darà allo spettacolo? Chiede un ascoltatore. Adesso, al di là del comunicato di ieri sera, però non è facilissimo pensare a un Totti che lavora con Pallotta dall'anno prossimo, faccio per dire. Oppure invece tutto risolvibile. Io credo, al di là dei contratti che hanno firmato, se li hanno firmati per il dopo carriera, io credo che davvero anche le vicende di queste ore, non so come la pensa il direttore, abbiano insegnato che il legame tra Totti e la Roma a un certo punto si debba chiudere. Troppo forte, troppo ingombrante, troppo simbolico, troppo presente. Perché direttore? Troppo? Cioè, in un calcio che ha quasi abolito la simbologia, perché le bandiere non esistono più o cercano di non farcele vivere più, le maglie vengono stravolte in una maniera a volte orribile, a volte pittoresca, io penso che non sia un troppo l'appartenenza, per cui io credo che se dovessi dire tra 5 anni chi sarà la Roma tra Totti e Pallotta, io credo che non ho dubbi, penso molto più Totti di Pallotta, nel senso che assolutamente. Penso che gli allenatori passano, i presidenti passano, le società passano, io mi auguro che le bandiere resistano, insomma, per cui il mio sogno è tornare a vedere Del Piero nella Juventus, Maldini nel Milan, sì. Ecco, mi piacerebbe che anche come simboli a cui ci si aggrappa, questi giocatori possano avere una vita professionale molto più lunga, eterna nelle loro squadre. Ma assolutamente, noi siamo qui a una fiera che rappresenta veramente le eccellenze del mondo dell'arredamento, delle piastrelle, una fiera internazionale. Questi sono tutti business, tra virgolette, normali. Il calcio, da questo punto di vista, è un business che flirta però con i sentimenti, con un sentire appunto comune delle persone, che ha una simbologia di tipo diverso. Quindi, da questo punto di vista, Totti e quelli come lui rappresentano un valore, secondo me, inestimabile. Però io, tornando alle polemiche di queste ore, Io non l'ho capito, ve lo dico proprio sinceramente, non l'ho capita, non ho capito quale fosse il motivo, al di là del legittimo sfogo di una donna che ama il suo uomo, e questo è molto bello e quindi è doppiamente rispettabile e doppiamente legittima. Però ecco, dal punto di vista poi dei rapporti, questa cosa non semplifica. Poi ieri sera c'è stato il comunicato ed è già un primo passo. Oggi probabilmente Spalletti passerà comunque alla festa di Totti, è arrivato il brindisi da parte di Pallotta, la Roma deve tornare alla normalità. Però non so se Vogalelli ha capito questa uscita. Ma sì, l'ho capito, perché Ilari ha detto quello che pensano tutti i tifosi della Roma e ha detto quello che pensa Totti. Poi Totti chiaramente è un professionista, quindi mette la Roma davanti a tutto. Però voglio dire, ma come si fa a dimenticare una ferita così forte sulla pelle quando un giocatore come Totti viene cacciato da Trigoria? Cioè, noi ci siamo dimenticati, perché ne abbiamo fatto cronaca, ma il giorno diventerà storia, cioè che il giocatore è simbolo della Roma, appunto, che diciamo che rispetta tutti quanti, cioè il record di aver vissuto tutta una carriera nella sua squadra, secondo alcuni facendo un sacrificio, secondo altri per evitare di misurarsi, ognuno la può pensare quello che, in modo come preferisce, però che è stato 25 anni in quella società e poi arriva a 39 anni che viene cacciato da Trigoria. Allora, al di là poi dell'ufficialità, dei comunicati, degli apprezzamenti, delle cose, secondo me sono esperienze che non si dimenticano, per cui il professionista probabilmente lo mette da parte, ma io penso che l'uomo, il marito, eccetera, eccetera, non può dimenticare. Per cui Ilari ha espresso, secondo me, e lo dico perché, anzi, faccio i complimenti alla Gazzetta dello Sport, che ha fatto un bellissimo scoop comunque, perché ne parliamo a distanza di due giorni, però ha detto una cosa. Io sono convinto che nel suo intimo Francesco pensa, lui non è che è stato messo fuori squadra, è stato... Sì, ma che a maggior ragione io credo renda difficile ipotizzare una convivenza con Pallotta, perché anche con Pallotta, insomma, non è andata leggerissima Ilari. Sono ferite che... Sta parlando del proprietario del club. Tutte le ferite producono una cicatrice, no? Cioè, per cui non è che la cicatrice la cancelli, la cicatrice sta là e ti ricorda sempre qualcosa. Poi c'è il rapporto professionale e si va avanti, però ripeto, io non credo che Pallotta abbia fatto il contratto a Totti. Totti, tra l'altro, io lo ricordo, questo contratto da dirigente ce l'aveva già da prima, fatto da Rosella Tenzi, per cui ci sono delle storie che riguardano un club che vanno al di là di chi è in quel momento il presidente. Insomma, a meno che uno non voglia passare alla storia non solo per aver cacciato Totti da Trigoria, ma per averlo escluso dalla storia del club, che non è mai bello, io credo che poi alla fine lui andrà con Pallotta d'accordo da un punto di vista professionale, adesso al di là degli slanci pubblici che chiaramente fanno parte un pochino della scenografia, però andrà d'accordo con Pallotta, pensa, ripeto, che secondo me tra 5 anni la Roma sarà ancora sicuramente la Roma di Totti e non so se sarà ancora la Roma di Pallotta, ma come di tanti dirigenti. Grazie direttore. Ciao, buona giornata. Grazie ad Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport. C'è la borsa. Torniamo subito. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Amico mio, auguri, siamo arrivati a 40, puoi giocare 5 anni ancora facile per quello che stai dimostrando. Sono orgoglioso e contento di aver giocato con te e mi raccomando, continua a dare spettacolo, sei il numero 10 più forte della storia italiana. Un bacio, ciao. Hola Francesco, bueno, antes que nada mandarte un feliz cumpleaños y desearte que pases un lindo día, decirte que siempre te admiré y del día que te conocí mucho más todavía, así que nada, desearte lo mejor y nada, espero verte jugar un par de años más todavía. Abrazo grande, nos vemos, chao. Ciao capitano, ciao principe di Roma, auguri, 40 e stai andando ancora, veramente sei un idolo, impressionante quello che hai fatto nella tua carriera, la persona che sei, mio grande rispetto, bravo. Ciao capitano, tanti auguri per il tuo compleanno, ti deseo una fantastica stagione e ti vedo a Roma. Auguri Franceschino, auguri, ma che so 40 per te? Non so niente, sei fatto de marmo, papà e mamma ti hanno fatto de marmo. Tu sei tutto per sta città, sta povera città, guarda a sinistra e vedi il buco, guarda a destra, vedi la monnessa, guarda di fronte a me, vedo il grande Francesco Totti. Francettiamo. Uè, ciao France, niente, avrò provato questo video 100 volte. Una volta non mi piace la luce, una volta non mi piace quello che ti dico, ma come me tutti quanti, perché escono di quei video bruttissimi. Però è un modo per starti vicino in un giorno speciale. Un abbraccio forte e tantissimi auguri. Ciao quarantenne. Vabbè, sembra che sta morendo. No, Scotti è bellissimo. Io anche Cassano. No, ma qui c'è una cosa ci faceva Cassano in una galleria con Djokovic, Nadal, ma tu Messi. Tu sei veramente, io ti disconosco come co-conduttore, ma guardate bene, a parte Cassano in termini di talento, poi è chiaro, è stato inespresso, incompiuto, si è buttato via, per carità, però è felice, molto più di altri secondo me. E poi con Totti si è divertito tantissimo, in tanti anni in campo e fuori. Regalando grandissimo spettacolo. No, però questo, devo dire, questa clip era bellissima, perché poi alla fine questa è una categoria, è la categoria dei campioni, dei geni dello sport, ed è una categoria, loro lo sanno, si riconoscono fra di loro, sanno che hanno qualcosa di diverso, no? Un X factor diverso che li ha resi grandiosi, e quindi c'è una stima, un rispetto, e anche se magari sono avversari, che va oltre, e la trovo molto bella. Lo ricordiamo il numero? 800240024, i messaggi 349-238-6666, l'hashtag per il mio regalo per Totti, ognuno ovviamente, sia i rivali che i tifosi di Francesco. Ci sono anche i rivali, la Roma non potrà mai essere una squadra di livello internazionale, conservativa, bigotta, in mano le mogli isteriche di qualche giocatore più ricco, ci scrive Riccardo da Roma. Forza Totti e speriamo nel gemellaggio Napoli-Roma, un ragazzo che non si firma. Ma in un calcio sempre più fatto di marketing, non è più produttivo avere le maglie del capitano di una squadra che sia simbolo e bandiera? Assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo, sia in termini romantici che in termini poi concreti. Auguri e rispetto per Francesco Totti. Non avete coraggio di dire che la poveretta Ilari ha perso la testa e ha sbroccato. Beh, ma, so, però abbiamo detto che è incomprensibile. Io non l'ho capito l'intervista, non ho capito veramente l'obiettivo dell'intervista, francamente. Facciamo Gennaro, dai, Gennaro da Napoli. Sergio Di Padova dice che senza di lui la Roma avrebbe vinto di più. Gennaro. Sì, semplicemente da tifoso napoletano vi fate i miei auguri a Totti, che è veramente un esempio per tanti ragazzi per l'attaccamento alla maglia. Inoltre ritengo che l'uscita della Puglia Ilari non ha fatto altro che dire ad alta voce quelle che pensiamo la maggior parte di noi. Spalletti soffre una sorta di gelosia nei confronti di Totti, e lo si vede anche quando segna Totti in questo scorso di campionato. Sì, che aveva quella faccia un po' così, ogni tanto è parso un po' in difficoltà. No, ma io penso che Spalletti abbia allenato l'anno scorso la squadra e soprattutto l'ambiente a imparare a convivere. Certo, c'è un eco, che è successo? Sembra che siamo tipo in Piazza San Pietro. No, a convivere con l'idea che Totti inevitabilmente, anche se è un Highlander, prima o poi dovrà lasciare. Quindi io credo che questo sia il pensiero di Spalletti. Io non credo che Spalletti soffra di chissà quale. Ma poi c'è un allenatore a Roma che non ha sofferto Totti. Io credo che Spalletti l'anno scorso abbia fatto un lavoro eccezionale, eccezionale e abbia tirato fuori anche dallo stesso Francesco Totti, che gli ha dato una grande mano, perché senza i gol di Totti probabilmente la Roma non sarebbe arrivata terza, però sta di fatto che ha tirato fuori il meglio di Totti, ha tirato fuori l'orgoglio ferito. Io nella storia del calcio ho visto mille esempi di allenatori che hanno anche utilizzato questo tipo di leva psicologica per tirar fuori il meglio dei propri campioni, e Totti ha dimostrato a 39 anni e mezzo di avere ancora delle cose che non ci aspettavamo, forse neanche lui si aspettava di poter avere, e Spalletti ha usato una leva psicologica straordinaria, profondissima, un po' sgradevole sicuramente, che è stata quella di provocarlo, di tirargli fuori, alla fine gli ha tirato fuori il meglio, perché Totti ha fatto un finale di stagione pazzesco, e io non avrei pensato, probabilmente neanche lui avrebbe pensato che avrebbe fatto questo. Quindi sulla validità del lavoro di Spalletti non credo che ci siano discussioni. Sul fatto che possa soffrire la personalità di Totti, secondo me no, secondo me non è questo il punto, non è questo il punto. Quello che io non capisco sinceramente è, in un momento in cui la situazione era migliorata, perché fare quell'intervista, perché spaccare tutto, era ambiente spogliatoio, Totti stava giocando con una società. Certa regolarità, è una delle poche cose ultimamente che funzionano nella Roma. A che serve? A questo io non l'ho capito, però ripeto, c'è una sfera legittima che fa parte della libertà delle persone di poter dire quello che pensano, e da questo punto di vista io l'ammiro Ilari, perché comunque ha detto una cosa che pensa. Secondo me questa cosa non è utile, io non la condivido del tutto, ma questo lo sa lei, e soprattutto appunto non è utile, è ammesso, paradossalmente ha messo in difficoltà Francesco, cioè secondo il messaggio di ieri sera, insomma, scritto evidentemente, pesato lettera per lettera, mostra un certo imbarazzo nel cercare di tenere insieme queste due sfere. Ma Totti è normale adesso, che tenga insieme, quella è la moglie, la ama, e quello è un atto d'amore, aver detto quelle cose lì è un atto d'amore. Adesso lo chiediamo anche a Luca Telese. Luca, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, grazie per la convocazione. Aspetta però che ti faccio sentire prima Totti, una mezz'oretta fa a Sky, quando è tornato sul suo rapporto con la società e anche con questo essere ingombranti in questi anni. Io faccio parte del gruppo, ho sempre remato nella stessa direzione della società, mai contro nessuno, ho sempre guardato le persone a testa alta, perciò sono coerente con me stesso. Tu con chi stai, con Ilari o con Spalletti? No, ma senza dubbio con Totti e con Ilari, perché scusate, avete dato giustamente equilibrio a tutti, ma Spalletti parla troppo, vuole dire tutto il contrario di tutto. Ma come gli è venuto in mente di dire quella battuta bruttissima sui blasonati che non devono avere privilegi? Non so se ce l'avete, che ovviamente era dedicata a Totti. Beh, quindi non sentita è stata ieri una bella battuta. E io non credo fosse dedicata a Totti. Io non credo fosse dedicata a la Roma. E chi è il blasonato della Roma? Chi è il re? Chi è il principe? Chi è? Ma poteva anche essere dedicata a Totti. Però io ti dico che se la Roma adesso rientra nel loop, è dedicata a Totti, perché lui parla troppo. Tu hai detto gli ha fatto un trattamento, gli ha fatto un mobbing da cui Totti è sopravvissuto, perché è un campione, ma che era, puntava, forse aveva una matrice societaria, a farlo diventare un ex giocatore. Tutto quello che Totti ha avuto in questo e nell'altro campionato se l'è conquistato con i due gol, col Torino, con quelle sforbiciate. Quindi adesso, secondo me, Spalletti dovrebbe stare un po' buono, pensare che non è il demiurgo che distribuisce le pagelle a tutti, fa il suo mestiere, però al povero Totti, che ha segnato a 40 anni quel giorno, non gli dovrebbe dire niente. Nulla. Ma sei d'accordo che uscendo con un'intervista così la moglie Ilari in qualche modo ha dato forza a quelli che invece pensano che Totti sia troppo per la Roma? Posso dire anche una cosa, tagliare. In un momento di difficoltà di Spalletti dopo la sconfitta col Torino, non si parla più della sconfitta col Torino, non si è parlato più della sconfitta col Torino, non si è parlato più dell'affermazione di Spalletti. Ma io voglio vedere se domenica sera va male con l'Inter, cosa succede a Roma. Vabbè, ma comunque, insomma, io penso che sia abbastanza paradossale, non faccia bene alla Roma questa polemica, e mi sembra di essere tornato indietro di 6 mesi, mi sembra di essere tornato a febbraio, a marzo, quando invece mi sembrava che il rapporto, come in qualche modo confermano le parole di Totti anche di oggi, di ieri nel comunicato, il rapporto con Spalletti, ma se nei fatti si è ricostruito. Abbiamo il traffico, chiedo un minuto di pazienza a Luca, torniamo subito, ci sono anche Nicola dalla provincia di Chieti, Giuseppe dalla provincia di Modena, traffico, torniamo. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta. Tutti convocati. momenti difficili ne ho percorsi, soprattutto quando esci fuori da un infortunio, quando c'era il problema di rinnovare, diciamo, il penultimo contratto, c'era un momento che ho pensato veramente di cambiare squadra, poi il cuore, gli amici, la famiglia mi hanno aiutato a riflettere e fortunatamente sono ancora qui a dire la mia, soprattutto sul campo verde. E questo ancora Totti di oggi, il Totti dei 40 anni. Luca Telese, come va a finire questa anche storia? Di Juve, sì, di Napoli, dopo le 15 parliamo di Juve, di Napoli, di Champions. Siamo insieme fino alle 15.30. 800 24 00 24. Come va a finire questa storia, Luca? Io ho l'impressione che renda un po' più complicato quello che mi pare di aver capito Totti vuol fare a maggio, cioè andare avanti a giocare un altro anno. No, assolutamente, perché o è così o è così. Cioè Totti, come diceva Primo Levi di Melville, non passa per le porte normali, passa per altre rotte, e quindi lo devono vedere così. Anzi, Totti ora si è messo in mezzo fra Ilari e Spalletti, è il mediatore. Ha detto: non ti preoccupare Spalletti, piatela, come si dice a Roma, e andiamo avanti. Ma lui ha sbagliato, è stato omesso, lo dice Ilari, pazienza. Totti dice: io me lo sono dimenticato. Quindi è stata una mediazione salutare, quella di Totti, fra Spalletti e Ilari. Ovviamente Spalletti deve accettare di non essere protagonista. C'è in campo uno che ogni 10-15 minuti che gli regala fa delle cose che non sono più di calcio, sono installazioni artistiche, il lancio col Crotone, il lancio con la Sampdoria, cioè cose che non si vedono da nessuna parte al mondo. E quindi basta, ringraziare che c'è. Grazie Luca. Grazie. Ciao. Grazie ciao. Luca Telese. Nicola dalla provincia di Chieti. Nicola. Pronto. Eccoci. Pierluigi. Sì, c'è. Sentite. C'è. Ciao Pierluigi. Sì, ci siamo visti a Pescara Inter, ti ricordi, con il video, ci siamo fatti una foto bellissima. Ciao. Mandacela. Io premetto che sono un medico, no? E si parlava di X Factor. Ma vogliamo riconoscere a quest'uomo qualcosa di diverso dagli altri? Ma chi è Spalletti? Ma Spalletti chi è? Che cosa ha fatto Spalletti? Beh, è un ottimo Spalletti allenatore. Spalletti non dai. Può mettersi come? È un ottimo allenatore Spalletti. Adesso. Ma di che? Che cioè, per me se la vabbè, che ha vinto. Il ragionamento sulla vittoria non è la cosa più tottiana del mondo, nel senso che Totti, cioè dipende anche dove sei, Furino, che fra l'altro è un ottimo giocatore, recordman per numero di scudetti, non si offenderà, il miglior giocatore della storia del calcio, cioè non sempre coincide la quantità di vittorie con quello che è il talento individuale di una persona. Spalletti ha dimostrato in mille circostanze, alla Roma soprattutto, di essere un ottimo allenatore e stava facendo l'anno scorso un lavoro straordinario. Ma poi Spalletti ha fatto cose non troppo diverse da quelle che ha fatto ad esempio Capello con anche grandi allenatori che vincono tanto fanno la stessa scelta. Io, e non per questo debbano essere al messi netto di qualche uscita che l'ho detto mille volte che non ho capito, non mi è piaciuta in qualche conferenza stampa la parte di Spalletti, che non ho capito perché mi sembravano delle pure provocazioni, ma la gestione del giocatore da parte di Spalletti l'anno scorso per me è stata perfetta, perché lui ha tirato fuori il meglio da Totti. Giuseppe. Pronto. Giuseppe, eccoci. Ecco, io volevo fare i complimenti a Totti e ricordare accanto a Totti il grande José Altafini della Juventus. Anche del Napoli, eh? Nel senso, scusami, sì, del sì. Dell'ultimo quarto d'ora. Abbastanza attempato per ricordarmi José Altafini che segnava, certo, nell'ultimo quarto d'ora. Anche lui quarantenne. Sì, ma ci sta come ragionamento, e ribadisco, Totti poi se l'è guadagnato sul campo questo spazio e se l'è guadagnato anche di più, perché ultimamente sta giocando sicuramente di più, con la Samp ha cambiato la partita entrando nel secondo tempo, col Crotone è partito titolare, col Torino è entrato all'inizio del secondo tempo, sta facendo cose molto positive, ma ripeto, sta facendo cose molto positive perché c'è una quadra oggi con Spalletti, cioè questa intervista ci riporta indietro di 6 mesi e secondo me non fa il bene della Roma. Detto questo, poi ne usciranno fuori, ci mancherebbe altro. Con quella bocca la Blasi può dire ciò che vuole, ci dice un ascoltatore, assolutamente, ragazza meravigliosa, oltre che grandissima professionista. Riccardo ci scrive: siamo sicuri che la moglie di Totti, visto da chi è pagata e con chi lavora, faccia interesse a loro. Vabbè, siamo proprio alla dietrologia. Il complotto, sì, c'è un complotto. Vabbè, buon compleanno, sei un uomo eccezionale anche per la tua bontà d'animo, sei una perla in un letamaio. Un bacione, ci scrive. Vabbè, esageriamo. Allora, ci dobbiamo fermare che c'è il GR. Se sia una perla, non c'è dubbio. Ci dobbiamo fermare che c'è il GR. Torniamo subito dopo con la Juve, la Champions, il Napoli. Cambiamo e tutto il resto. 800 24 00 24. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Oscar, mi aiuti? Eccomi. No, stai attento, prendila di lì. Ma cosa? È scivolosa. Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14:30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Tutti convocati. L'amore subito non sei davvero, davvero sicuro di te. E c'è una favola per cui chi mangia una mela fa il peccato più grande, più brutto che c'è. C'è una regola per cui l'infinito sembra un otto sdraiato per terra come me. Quando guardo le stelle è così normale pensare che questa vita è bellissima, anche se a volte ci tira giù, qualcosa ci tira giù, e che Bologna è una regola che hai provato a spiegarmi tu, non lo dimentico più, mi ricordo le strade in cui ti ho promesso che sarai cambiato, ma non ho capito come si fa, come si fa, non ho capito come si fa, come si fa. C'è una regola. Se fosse capito, siamo a Bologna, Sì, Bologna è una regola, ascolta, Bologna è una regola. Marocchi, come va? Bene. Ma la cosa che ti piace di più di Bologna? Ma tu sei a Bologna adesso, dove sei? No, adesso non sono a Bologna, però qualche cosa posso dire di Bologna, dai. Ecco, la cosa che in questo momento non sei a Bologna, la cosa che ti manca di più di Bologna in questo momento, qual è? I portici, perché piove, sei al sicuro, c'è il sole, sei riparato. Siamo da questo punto di vista intanto 11, perché la tendenza è essere unici a Bologna. Cioè, immagino. Senza Luca, sì. Che cos'è? È un luogo dell'anima, è il posto dove i tifosi del Bologna vanno a festeggiare le grandi imprese, no? Ma no, oltre che il portico più lungo del mondo. Qualche calciatore, magari qualche bomber, se arriva tipo destro, arriverà a 18 gol, farà la camminata a San Luca. Invece per me, dagli studi di Sky, quando vedo San Luca sono arrivato a casa, ecco. Per tutti quelli che viaggiano un po' è un punto di riferimento. Assolutamente, dall'autostrada si vede benissimo. Ultima domanda, Virtus o Fortitudo? Virtus, ma perché devo cioè se si parla in un bar di basket una parte la devo scegliere. Non c'è molta logica da questo punto di vista. Ma perché sennò non te ne frega niente o perché... Il giusto. Però comunque la mia la dico lo stesso, beh. Però è difficile stare a Bologna o essere stati a Bologna senza essere appassionati di basket. E ogni tanto, insomma, saltano fuori difetti anche di quelli di Bologna. Beh. diciamo che quella volta che Danilovic basta così, basta dire esatto, questo. Proprio sulla sirena, fallo sì, col sì, tiro sì, da tre, eccetera, eccetera. Quell'ultimo minuto, quell'ultimo minuto. Ah, okay. Sì. Senti, bene. Senti Giancarlo, come la vedi la discussione intorno ad Allegri, al suo calcio poco estetico ma pratico? C'è chi dice che è un'arte, c'è chi dice che invece è semplicemente un momento di difficoltà della Juventus. Tu da che parte stai? Io sto con Allegri tendenzialmente in questo momento finché non ha Marchisio. Poi dopo è chiaro che andrebbero viste altre cose, cioè ovvero la continuità di gioco, perché la Juventus fino adesso forse dovevate, io ci ho creduto subito ad Allegri quando pronti via ha detto guardate può essere anche più forte questa Juve di quella dell'anno scorso ma sicuramente è diversa, e allora purtroppo l'infortunio di Marchisio, un centrocampo numericamente come qualità assoluta è un po' risicato, si fa fatica a trovare l'equilibrio giusto, e quindi anche Pjanic è molto molto svantaggiato dal fatto che manca Marchisio, così avremo chiuso immediatamente la questione davanti alla difesa. Ecco, però Pjanic sta diventando un po' il nodo, cioè il tema tattico da dover risolvere in mezzo al campo. Ma di questo periodo, appunto, perché dopo di non questo si periodo, discuterà certo, nemmeno. Cioè, non torna discuterà Marchisio, scherziamo. Certo. No, torna Marchisio, Pjanic fa la mezzala ed è tutto a posto dopo. Ma io me lo immagino così, insomma. Quindi Allegri può abbandonare l'esperimento di provare a metterlo davanti alla difesa? Tanto vale lavorare sulle Minà per un paio di mesi? Sì, anche se io tendo a semplificare le cose, gli allenatori delle volte a complicarle, quindi io guardo il giocatore e analizzo soprattutto singolarmente il giocatore, l'allenatore se fa mille domande prima di prendere una decisione su tutto l'insieme, quindi ha degli equilibri anche per quelli che vanno in panchina, quindi delle volte vedere Mandzukic e Higuain insieme è per quello, è perché Mandzukic troppo in panchina non bisogna lasciarlo, cioè ci sono delle cose sulle quali noi sorvogliamo e gli allenatori no. Ma secondo te è fallito l'esperimento di Mandzukic e Higuain insieme? Come idea che possa durare, sì. Cioè, non ci stanno? No, non ci stanno, per una partita ci stanno. Poi a Palermo la Juve è stata talmente brutta in generale che, insomma, si fa non fatica a trappolare. Non è solo colpa loro, no? Esatto, assolutamente. È stata proprio una prestazione complessiva. Senti, che idea ti sei fatto di... Non so se ci vedi qualcosa su Totti, tema nuovo, ma anche su questa polemica, su questa intervista. Insomma, adesso la gestione per Spalletti sarà sempre facile, come è stata negli ultimi giorni, oppure un passo indietro nei rapporti, dico? Detto che oggi mi sarebbe piaciuto fare pausa compleanno, ma tanto quello, il compleanno è la cosa più semplice, perché Totti è meraviglioso per tutti, soprattutto per i tifosi della Roma, perché se lo godono tutti i giorni. E invece sulla querel tanto è irrisolvibile, perché le esigenze di Totti, di Spalletti, della società, dei tifosi sono tutte diverse. E quelle dei tifosi di vedere Totti in campo e la Roma che Totti in campo 90 minuti, e la Roma che vince lo scudetto, secondo me non ce la possono fare, insomma. Totti è bello di per sé, cioè, al di là del risultato. Totti è bello di per sé, però devo dirti la verità che ieri, vabbè, io insomma ero a Milano, preparavo la trasmissione, quindi diciamo che avevo, però cioè, qualche segnale mi è arrivato, no? delle radio, dei blog, dei social network, e insomma in realtà c'è tanta gente anche arrabbiata, con l'intervista, preoccupata, arrabbiata e banalizzo dalla parte di Spalletti. Cioè io credo che comunque in tanti non l'abbiano capita questa cosa, perché francamente è creare una complicazione, ma io credo sia stato anche creare una complicazione o comunque in qualche modo mettere un problema, sì, appunto, creare una complicazione in una giornata, in una settimana che doveva essere soltanto quella di festa, di celebrazione. Totti riceve messaggi da tutto il mondo perché, insomma, se gli scrivono Messi, Djokovic e Nadal, è perché evidentemente è qualcosa di incredibile, ed è incredibile che sia arrivato a 40 anni così. Quindi, ed è incredibile che debba stare a commentare un'intervista della moglie che spacca tutto. Ferma restando la legittimità di una persona che ama suo marito di potersi togliere qualche sassolino, perché se poi togliamo questa libertà, secondo me ci perdiamo un pezzo importante, ci perdiamo. Grazie al professor Marocchi, volevo anche dire appunto professore. No, tanto è inutile aggiungere, cioè, se ne è parlato, ma la questione era comunque sotto la cenere, ecco, cioè, quindi sì. non è stata creata dalla moglie di Totti, ma è una questione che è in piedi e rimarrà così, insomma, quindi se ne facciano una ragione i tifosi della Roma, tanto, cioè, se lo possono godere, però per una settimana penseranno che meraviglia, ce l'abbiamo noi, la settimana dopo diranno ma perché continua a giocare, tanto queste cose meravigliose le abbiamo viste, dobbiamo tentare di costruire una squadra da scudetto senza Totti, cioè, quindi il tifoso della Roma immagino che la settimana pari dirà così, quella dispari il contrario. In ogni caso da marzo non è nemmeno quotato il polemicone sul rinnovo per un altro anno, ve lo dico, non accettano neanche le quote. Grazie Giancarlo. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Giancarlo Marocchi. Ciao. Stasera c'è Dinamo Zagabria Juventus. Allora vi faccio sentire un paio di file audio di Allegri. Il primo su questa pressione che viene messa sulla Juve, che deve vincere sempre 3-0. C'è un'illusione che la Juventus debba vincere le partite tutte 3-0. Io credo invece che la Juventus va a ritornare con i piedi per terra e essere pratica e concreta, perché dopo alla fine la dimostrazione è che per vincere le partite bisogna sudare, faticare e giocare bene. Ma questo giocare bene passa indipendentemente se vinci o perdi una partita, ne puoi vincere anche 5, ma se giochi male devi lavorare, noi bisogna lavorare per migliorare noi stessi. E poi sulla partita di questa sera, che visto il pareggio col Siviglia assume una certa importanza, ricordando anche che in trasferta l'ultima Juve in Champions non è stata straordinaria, in Danimarca ha perso punti decisivi l'anno scorso a Siviglia e in Germania, insomma, attenzione, perché non è detto che la Dinamo Zagabria sia necessariamente un ostacolo semplice. Intanto facciamo le tre, se ce ne possono fare, poi dopo vediamo, diciamo partita dopo partita, al momento non sappiamo quanti punti servono per arrivare primi e per arrivare secondi. Al momento sappiamo che domani abbiamo una partita complicata, perché giocare in Europa è sempre complicato, vincere le partite in Europa in trasferta non è mai semplice, e quindi domani sarà una partita da affrontare nel modo giusto, ma soprattutto venire a casa con i tre punti attraverso una prestazione. Pierluigi da Milano, Pierluigi. Buongiorno. Una considerazione e un fatto. La considerazione è che ognuno dovrebbe fare il suo mestiere. Sicuramente quando io sono stato mandato via dall'azienda presso cui lavoravo, mia moglie non ha telefonato all'amministratore delegato perorando la mia causa. Però sarebbe stato interessante. Magari riusciva a parte le battute. Vedi, il problema è quello, che magari riusciva. Sì, Ilari è un personaggio pubblico. Ilari ha fatto un'intervista nella quale hanno fatto 157 domande su 1000 argomenti. Detto questo, ribadisco, mi sfugge l'obiettivo. Cioè, non è un'intervista che semplifica, tutt'altro, insomma. Già il fatto che sia dovuto arrivare un comunicato ieri sera è la dimostrazione plastica del fatto che non abbia aiutato. Poi tutto è ricomponibile, soprattutto se ti hai Francesco Totti e sei dato tutto te stesso alla Roma, e quindi su questo non c'è discussione. Però forse io me la sarei risparmiata, ma abbiamo detto 1000 volte, è anche legittima, anche bello. No, una cosa ci tengo a dire, perché poi ieri appunto sono arrivati tanti messaggi anche nei confronti di chi ha fatto l'intervista, e questo è un elemento culturale che va assolutamente capito, anche a costo di essere un po' noiosi, un po' pallosi. Quando un giornalista fa un'intervista di questo tipo, fa un colpo giornalistico, ed è come se Totti facesse un gol in rovesciata. Non c'è il bene, il male, la cattiveria, la voglia di destabilizzare. Se un personaggio come Ilari Blasi vuole dire quelle cose, e quelle cose decide di dirle, il giornalista non è neanche minimamente, tra virgolette, colpevole. Capisco che il tifoso ci possa rimanere male, ma il giornalista ha fatto semplicemente il suo dovere. Diverso è, ovviamente, se un giornalista fa un'intervista e questa intervista distorce il pensiero della persona, ma il fatto che non sia arrivata nessuna smentita da parte di Hillary dimostra che mai come questa volta invece era quello che lei voleva dire. Allora, se era quello che lei voleva dire, il giornalista fa il suo dovere. Mi rendo conto che può sembrare, no, pleonastica sta cosa qui, ma in realtà invece no, sappiamo che c'è chi, perché Kelly hanno ricevuto un sacco di insulti, no, da parte di alcuni tifosi della Roma, come se fosse una loro, un loro tentativo di voler destabilizzare l'ambiente, il che secondo me è assurdo. Alberto dalla provincia di Monza e Brianza, poi celebriamo un altro grande compleanno, eh. Alberto? Ciao, ciao a tutti, grazie della convocazione, milanista, forza Totti, sicuramente complimenti. Allora, io ho avuto il piacere qualche anno fa, io e la mia famiglia, di conoscere la Hillary Blasi, una persona squisitissima, di un'educazione veramente al di fuori del comune, molto gentile e tutto retto. L'unica cosa che mi chiedo, l'avete già data due secondi fa la risposta, ma fatemela rifare. Quanto sarebbe stato opportuno che la giornalista con in mano un'intervista così alzava il telefono, chiamava Totti, diceva: io mando questa intervista qui di tua moglie. Ah, perché, cosa scusa? Sì. Lo so, io mi risulta, Alberto, che Hillary Blasi abbia più di 18 anni e un giorno. Esatto, mi risulta. E che quindi sia pienamente consapevole di quello che dice e quello che se fa. Se mai è all'interno delle mura domestiche. No, se no parliamo che magari, alla Trapattoni, per che cui le mogli devono fare dice, le amore, mogli. Amore, ho fatto sta cosa, io direi questo, sei d'accordo, ti scoccia, ti crea problemi, se mai è questo sì, all'interno. Sono problemi loro. Ma non deve essere il giornalista che chiama Totti, d'accordo sul resto. No, tra i mille doveri che abbiamo non c'è questo. E sullo splendore della famiglia credo che proprio non ci siano assolutamente dubbi. Oggi c'è qualcuno che compie 50 anni. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone. Oggi è anche il compleanno di Jovanotti. Carissimo Luigi Pardo, saluto Marino Bartoletti. Ciao Marino. Oggi è solo il compleanno di Jovanotti. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Sì, anche se posso dire, io avrei scelto la mia canzone di Lorenzo è Fango, sempre lo stesso album, credo. Bravo. Ma tu sai, Pier, che io sono social da qualche settimana, sì. E ho indetto un referendum, un mini referendum, e devo dire che è stato molto significativo vedere come si sono piazzate le diverse canzoni, che sono poi il sintomo anche di un'adesione generazionale, diciamo così, perché Jovanotti non è da ieri che canta belle canzoni, ha vinto abbondantemente A te. Sì, dai pazienza, però cerco di ricordare la classifica e mi sembra che Fango sia fra le prime 10, ma guarda, ha vinto A te davanti alle tasche piene di sassi, canzone bellissima dedicata a sua madre, molto. Agente della notte, abbaciami ancora, ragazzo fortunato, bella e per te. Poi ci sono Fango, ombelico del mondo, ti porto via con me, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Però, io ragazzi, comunque ti vedo scritta su tutti i muri, ogni canzone mi parla di te. E questa notte questa c'è una che mi guarda qui dentro al cersaio dicendo: no, non era un riferimento complessivo, generale. Sono sposato, lo so. Quanto piacciamo, Capuano, è incredibile. Quanto piacciamo, è una cosa incredibile, pure nel mondo delle piastrelle troviamo, Ecco, ho approfittato della mia assenza da Bologna per piazzarvi alla fiera di Bologna, Ma noi siamo venuti apposta e non c'è. Ho fatto grave questa cosa. Qual è la cosa che tu Bologna, qual è la cosa che ti piace di più di Bologna? Lo chiediamo anche a te perché l'hai frequentata per tanti anni, sei nato vicino. Io sono romagnolo, attenzione. Lo so, romagnolo che intervisti su Bologna, il primo è Ciccio Marocchi, però ovviamente abbiamo buoni motivi per amare questa città, non ultima perché per quanto mi riguarda è la città del mio querin sportivo, motivo per cui dopo aver fatto l'università a Bologna poi mi sono trasferito a Bologna. La cosa che mi piace di più di Bologna è San Luca, che è la cosa che piace di più a quasi tutti i bolognesi, e ti dirò di più per fare un pochino sborone: nelle giornate di buona forma ci vado in bicicletta a San Luca, dove si è concluso sabato scorso il Giro delle Miglia. Uno va a San Luca e si sente veramente in pace col mondo, perché ci sono delle curve arrivando a San Luca in cui si può vedere anche lo stadio, dove una volta coloro che non potevano pagare il biglietto vedevano almeno tre quarti del campo inaugurato da Mussolini nel 1926. Stadio dell'Ara, Stadio dell'Ara. C'è anche un po', adesso non posso fare pubblicità, ma c'è anche un posto che fa dei tortellini, non solo dei tortellini e delle lasagne lì, lì sotto, eh? Hai presente? Proprio poco prima del portico, diciamo. Comincia con la M, comincia con la M, non posso dire altro. È un vezzeggiativo riferito a una frutta. Per le crescentine da romano alla mura, mi raccomando. Sì. Scegli come si fa a scuola. Un voto da dare a tua discrezione. Ma lasciamo stare Totti. Non so, un voto su, ma magari anche sulle mogli che parlano. Non è l'unica Ilari. Quest'estate abbiamo vissuto Vandanara con i suoi tweet. Io non so che voto vuoi dare, ad esempio, al Trap, che ha detto che le mogli devono fare le mogli. 5 sottinteso. Perché non si dice una fesseria del genere a 80 anni, dai, su. Le mogli, però posso anche dire, quelle di giocatori. Bisogna, secondo me, togliere l'elemento chiaramente sessista, ci mancherebbe altro, maschilista, cioè evitare assolutamente che la cosa possa essere confusa. Qui, secondo me, non c'è un elemento di questo tipo, c'è semplicemente il fatto che esiste una cosa che si chiama spogliatoio. Ed è lo stesso, secondo me, cioè se Balzaretti parlasse con il direttore del teatro dell'Opera di Parigi a proposito della Bagnato, dicendo che è poco considerata come toile, faccio per dirti, sarebbe esattamente la stessa cosa. È chiaro che qui l'argomento diventa sempre più delicato, proprio perché si rischia la battuta, le donne non devono parlare di calcio, ste robe qui che sono chiaramente irricevibili, inaccettabili. Però il tema, secondo me, è che esiste uno spogliatoio, che esiste una sacralità dello spogliatoio. E questo è credo sia importante, no? Cioè, ed è il motivo per cui, Pier, se mi permetti, ti parlerò di Mary Bruscolotti, cioè della signora di Palefierro. Palefierro. Beppe Bruscolotti era grosso modo per il Napoli quello che per Totti è stato ed è per la Roma in certi anni. Si è sfilato la fascia di capitano per darla a Maradona, quindi ha fatto un gesto che nessuno potrà mai dimenticare. Ed è rimasto legato per tutta la vita a una squadra e una città. La moglie Mary, la moglie di Beppe Bruscolotti, era la, come dire, leader dello spogliatoio delle mogli del Napoli, e c'è stato un momento in cui ha preso in mano questo spogliatoio quando alcune cose potevano dividere gli uomini, e pochi ricordano che il primo scudetto del Napoli è stato frutto anche della sua paziente tessitura. Certamente non avrebbe fatto una intervista come quella di ieri, di cui non si sentiva la necessità, che ha messo in difficoltà un pochino tutti, poi facciamo come il vigile di Amici miei, che dopo la supercazzola di Tognazzi dice al Necchi, facciamo finta di passare per Bischeri. Però ti assicuro, e in questo ti seguo, che la moglie di un giocatore, la moglie di un capitano, la moglie di un leader, ma anche la moglie di un magnate dell'industria o di un direttore di giornale, deve rendersi conto del ruolo che occupa. A maggior ragione se lei a sua volta è un personaggio famoso che può fare opinione. E la stessa cosa vale per un marito di una donna di perché è esattamente la stessa cosa qui. Grazie, insomma. Marino. 511 grazie. Presenze con la maglia del Napoli per Palefierro, Bruscolotti davanti a Giuliano e a Marek Hamsik, che è arrivato a 410 con quanti gol De Luca, quanti gol ha fatto Hamsik? 100. Cioè De Luca abbiamo già pronto per facciamo parlare le donne di calcio. C'è Roberta da Roma. Roberta, se prego. No, finisce che non riusciamo a farla intervenire. Roberta. Sì, buonasera. Giovanissima. Sì, ho 15 anni. Vai. Voglio fare gli auguri a Totti perché è un grande campione e spero che rimarrà a Roma fino a quando non avrà 80 anni. Perché senza 80 di lui... anni? Perché senza di lui la Roma non sarebbe niente. Cioè, se non ci fosse Totti in campo, la Roma perderebbe tutte le partite. Hai visto che bello? Beh, abbiamo semplificato. Grazie, Roberta. Sì. Ciao. Io sono tifoso, stavo dicendo. E io sono tifoso da Roma e soprattutto di Francesco Totti. Va bene, ci fermiamo qui. Io ho una fila di ringraziamenti da fare. Allora, Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone, che da Milano ci segue in redazione, e poi Pietro Lacorte, Davide Ciocia, Elena Ligios, Gianmarco Ferronato. C'è qualcun altro? No. Abbiamo, io vado a vedere qui, perché non ho capito se quest'anno va come perché, se va il listone grande o il listone piccolo. Non ho capito. Che dici, De Luca? A me il listone grande mi piace, eh? Il listone grande è un po' bello. Cioè, ci sentiamo domani dopo il GR delle 14. Ciao. De Luca, c'ha tutto. Andiamo a vedere le piastrelle. Va. Pure le piastrelle. Ciao Francesco, ti sfido a Footballi qua a Miami. No, sto scherzando. Comunque ti volevo fare gli auguri di buon compleanno. Sono 40 anni, stai ancora bene. Mi raccomando, gioca ancora qualche anno, facci divertire e ci vediamo a Roma quando vengo a trovarti. Bam, bam, bam.